Ormai lo conoscete, è quel momento post-elettorale nel quale ci si trastulla sui temi delle alleanze, del futuro delle coalizioni, delle vittorie, delle sconfitte, dei bicchieri mezzi pieni e mezzi vuoti. Il tutto in attesa del prossimo momento post-elettorale, che per inciso arriva tra poco, con il voto alle regionali di primavera. Passerà, si spera, e tornerà l'attenzione sui temi: pensioni, Ilva, l'Italia, tasse, i grandi dossier esteri, a partire dalla Libia. Non è un caso se al largo delle nostre coste c'è la Ocean Viking con a bordo 400 migranti e la Open Arms che ne ha raccolti 56. La tregua non sembra reggere. E c'è da guardare ad Oriente, a quel virus che ora l'OMS giudica come rischio elevato e che ieri ha spinto al ribasso le borse e le materie prime. Di cosa si discute? Del voto ovviamente, con annessi e connessi, Bibbiano, citofono, papete, sardine, del coronavirus naturalmente e ancora della scomparsa di Kobe Bryant e di quell'elicottero che forse in una giornata di nebbia come quella non avrebbe mai dovuto decollare. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Iniziamo dunque, 349-238-6666, care ascoltatrici e cari ascoltatori, per intervenire via sms, whatsapp, whatsapp audio in questo martedì 28 gennaio, sono le 6:31 minuti e 28 secondi, vi aspetto, fate sentire la vostra voce, fatecela sentire, va. Ci trovate anche su Facebook, siamo in diretta. Instagram, Twitter. E già vedo qualche WhatsApp polemico. Le navi a largo si sono fermate in ossequio alle elezioni o è sequestro di persona? Buona domanda. E vi siete scatenati in queste ore su questo voto? Vi siete scatenati? Stamattina mi sono svegliato, Salvini, ciao Salvini, ciao Salvini, ciao ciao ciao. Non sia proprio tanto rasserenante né per il PD né per i 5 Stelle il risultato di queste elezioni, perché se la Lega è al 30-32% in Emilia Romagna, guardate che bisogna poi fare il conto a livello nazionale, vuol dire che altro che 32, cioè c'è da preoccuparsi per chi sta dall'altra parte. E chi sta dall'altra parte rispetto alla Lega che cosa fa? Pensa a qualcosa di nuovo o qualcosa di vecchio? Non è molto chiaro. Comunque Conte decide di prendersi un po' il centro della scena politica e di dare l'idea di lavorare a qualcosa di nuovo. Cosa? Una nuova coalizione? Chissà. Oltre a dire che Salvini è l'unico sconfitto, risponde così a chi gli chiede di un fronte progressista. Queste formule che tornano e ritornano. Sentiamo Conte. Noi dobbiamo lavorare per contrastare queste destre. Quindi io mi auguro che si possa rinforzare sempre più un ampio fronte. Poi lo chiamate come volete voi. Lo possiamo chiamare progressista, riformista, alternativo alle destre, non lo so. Però sicuramente un ampio fronte dove possono trovare posto e possano sentirsi a proprio agio tutte le forze, pur con diverse sensibilità, che però vogliono condurre una politica alternativa a queste destre. Così Conte, questo ampio fronte progressista. Salvini, o meglio, facciamo una cosa, iniziamo da Conte su Salvini. Carmelo, Lauricella, vai. C'è stato chi però ha inteso fare di questo appuntamento elettorale, io ritengo impropriamente, un referendum contro o pro il governo nazionale. Mi riferisco in particolare a Matteo Salvini, che devo ritenere, proprio per questo atteggiamento che io giudico improprio, esce come il grande sconfitto di questa competizione. Dove per l'atteggiamento improprio, il riferimento è anche alla vicenda della citofonata, dei comizi a Bibbiano, sui quali il leader della Lega interviene così. decida. Che anche la citofonata è stato un errore perché ha spaventato parte degli emiliani. Io sono contento di aver dato una risposta a quella mamma, fosse anche solo una mamma, sono contento di aver dato una risposta a quella mamma, come a Bibbiano, sono contento di aver dato una risposta a quelle mamme. E sul tema di essere maggioranza nel paese, ancora Salvini. È chiaro che se ieri si fosse votato a livello nazionale, centrodestra avrebbe stravinto, mi sembra evidente, perché come coalizioni qua ci sono 3 punti di distacco, in Calabria non so quanti. Quando si voterà a livello nazionale è nelle mani del buon Dio saperlo. Beh, mi si consenta senza offesa, più nelle mani degli elettori, però insomma... Caro Massimo De Manzoni, condirettore della Verità, ciao, buongiorno, eccoci. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi aprite parlando di un Conte che si prepara al terzo governo e strizza l'occhio a Forza Italia, questo famoso fronte che non è chiaro. Chiamatelo come volete, dice Conte, è progressista, moderato, alternativa a queste destre, insomma, inventate il nome che volete, però io sono qua e mi metto al centro della scena politica, eh? Esattamente, chiamatelo come volete, basta che ci sia io. Il grande trasformista. No, ieri ha fatto un discorso particolarmente politico rispetto a quello che aveva fatto da sempre, da quando è comparso sulla scena politica. È stato il primo discorso veramente politico, ha detto anche una serie di castronerie come sui 5 Stelle, dicendo che il vero sconfitto di tutta la tornata è Salvini, che è uno degli sconfitti ovviamente, ma e preservando i 5 Stelle, che invece sono il vero caso su cui interrogarsi, a mio parere, e infatti lo facciamo, ma vedo che non siamo i soli. Ho avuto modo di sfogliare un po' di giornali, vedo che anche per esempio Angelo Panebianco sul Corriere della Sera si interroga su che cosa sia ora la rappresentanza, cioè abbiamo il primo partito in Parlamento che è forse l'ultimo nel paese, e sì, questo è oggettivamente un problema, perché il primo partito nel Parlamento determina la linea politica anche del governo, ed è una linea politica che non ha più seguito nel paese. È una cosa su cui Mattarella, a nostro parere, dovrebbe fare una riflessione. Non mi illudo che questo conduca a delle decisioni, però è un problema che una democrazia si deve porre. Sì, questo è oggettivo. È sicuramente uno spunto di riflessione all'interno della coalizione, no? Dove il PD rialza la testa e dice: ok ragazzi, adesso iniziamo a comandare noi, o iniziamo a comandare un po' di più. L'impressione è questa, Massimo? Sì, sì, ma è stata più che un'impressione, l'hanno praticamente detto adesso. Sì, in sostanza, diciamo, ha detto che sono cambiati gli equilibri, l'asse politico si è spostato, dal 5 Stelle hanno risposto come era logico che fosse: no, non è così, noi, ed è quello che stavo dicendo prima, i numeri sono dalla nostra parte, noi siamo comunque la maggioranza, però è evidente che è la stessa dinamica che si era riproposta, sì, poi dopo le europee, con la Lega che disse: non vogliamo rimpasto, ma i nostri temi devono passare, le autonomie, questo, quell'altro, con i 5 Stelle che invece fecero muro e andò a finire come andò a finire, e qui sta succedendo la stessa cosa. La dinamica mi pare identica, mi pare che i 5 Stelle non abbiano letto fondamentalmente all'urto dei governi, sì, nel senso che con la Lega l'elettorato, diciamo, loro avevano un elettorato trasversale che andava da destra a sinistra, si è ricomposto questa destra a sinistra, ma per colpa loro fondamentalmente. Io continuo a farla questa analisi: quando si formò l'anomalo governo giallo-verde, giallo-blu, chiamatelo come volete, tra la Lega e il Movimento 5 Stelle, era un governo che aveva una sua coerenza, discutibile se si vuole, ma era una coerenza di antisistema fondamentalmente. Sì. I 5 Stelle, per la paura di essere subalterni alla Lega, si sono trasformati alla fine in movimento di sistema, e a questo punto gli elettori, ma perché devono stare con loro? Dove, a questo punto vanno all'originale proprio. Dove Giuseppe Conte, movimento di sistema, dove Giuseppe Conte, che è un loro rappresentante, anche se in parte Nosta sembra in parte rinnegare questa origine, ne è la rappresentazione perfetta, cioè di questo inserimento nel sistema. Fatto sta che, come la legge, a proposito dei quotidiani, come la legge Avvenire nel suo titolo di apertura di oggi, riecco il bipolarismo, ed è questo forse uno dei grandi elementi di questo voto. Ovviamente vedremo come andrà anche alle regionali. Voglio far sentire agli ascoltatori anche Vito Crimi, che dice appunto che è il reggente al momento del Movimento 5 Stelle. Le elezioni sono andate male, ma lo sapevamo. Le elezioni regionali in Emilia e Calabria non sono andate bene, lo sappiamo, è inutile, non dobbiamo nasconderci dietro un dito, però erano abbastanza prevedibili. Il risultato lo sapevamo, non ci aspettavamo chissà quale altro risultato. Oh, Vito Crimi che si dimentica una stella, no? Nel suo elenco dice dobbiamo tornare alle origini, le nostre 5 stelle rappresentavano. Ecco, cosa rappresentavano? Quando siamo nati come Movimento 5 Stelle, io lo ricordo perché a volte queste cose vengono rimosse, siamo nati con 5 Stelle. 5 Stelle non erano sinistra, destra, sopra, sotto. 5 Stelle erano acqua pubblica, ambiente, connettività, trasporti, la quinta stella. La quinta stella, innovazione. Ecco, la quinta stella dell'innovazione che stiamo portando avanti facendo un ministero ad hoc. Chiedo un aiuto da casa. Ci perdonerà Vito Crimi, ci perdonerà. Allora Massimo, si era scordato innovazione. Vabbè, è un po' generico. Un po' come ieri è stato Giuseppe Conte, ospite di 8:30. A un certo punto dice: vabbè, noi dobbiamo creare questo nuovo fronte, al centro ci dobbiamo mettere il digitale, la parte green, e Massimo Cacciari gli va sotto e gli dice: ma che vuol dire questa storia di digitale e verde? Non vuol dire niente, sentiamo. E c'è una scelta, non le chiami corruzione, destra, non all'evasione fiscale. Ma ci sono delle scelte precise che non sono quelle di dire siamo per l'ambiente, perché questo lo dicono tutti, dopodiché non lo fa nessuno, ma per ragioni che lei sa benissimo, perché si tratta di questioni molto delicate, si tratta di combinare esigenze di sviluppo e esigenze di difesa ambientale, e lì ci occorrono grandi competenze e scelte politiche anche molto difficili. Ma le battute, siamo per l'ambiente, il digitale, eccetera, eccetera. Il digitale, caro, allora, chi non è? Salvini non è, Salvini non è per Travaglio. L'Italia il digitale, per l'Italia verde? Insomma, no, con la genericità non andiamo da nessuna parte, perché adesso, caro Massimo, e noi ci arriveremo tra un attimo, lo dico agli ascoltatori, tra 2-3 minuti, entreremo sulla questione dei dossier concreti, perché poi in vista di queste elezioni, Massimo, è rimasto tutto sospeso. Ilva, Alitalia, pensioni, ieri si sono rincontrati di pensioni che parleremo tra un attimo, ma anche appunto la vicenda, la questione dell'immigrazione, no? Con come avvenne per l'Umbria, le navi cariche di migranti in una fase molto delicata, va detto, perché insomma in Libia questa c'è una presunta tregua, perché la tregua non regge, insomma ne hanno caricati molti. La Ocean Viking è a largo delle coste con 400 migranti a bordo, la Open Arms ne ha raccolti altri 50 nella notte, e insomma sono rimaste là in attesa che si svolgesse il voto, almeno l'impressione è stata questa. Quindi tutti questi dossier che restano in ballo mentre si chiacchiera un po' di coalizioni, adesso senza voler sminuire necessariamente un nuovo assetto politico, però insomma le cose restano là. Assolutamente, oggi abbiamo un pezzo sul nostro giornale di Marcello Veneziani che dice esattamente questo, dice alla fine tutti hanno grosso modo qualche motivo di soddisfazione, i politici, da questo voto, persino quelli del centrodestra che comunque pur nella sconfitta in Emilia-Romagna hanno elementi di avanzata, di cose. Gli unici sconfitti sono gli italiani, perché si ritrovano con un governo che fino adesso ha rimandato tutti i dossier. Ma le premesse perché questo non avvenga non è che siano buonissime, perché come abbiamo visto all'indomani delle elezioni si è subito cominciato il balletto. Allora adesso noi facciamo così, no, noi, voi non potete fare così perché ci siamo noi. E effettivamente ci sono questioni estremamente concrete sul tappeto. L'ILVA, per esempio, è ancora una questione un punto interrogativo. Un punto interrogativo, sicuramente. Dopo che il problema è stato originato da una mossa ideologica, appunto, di quel famoso partito o movimento, che dir si voglia, che non esiste quasi più nel paese, ma che è determinante nel palazzo. Certo, c'è Ilva, appunto, come diciamo, all'Italia, le pensioni, c'è, insomma, gli spunti sono tantissimi. Adesso andiamo al traffico. Ma sì, ragazzi, lo dico, noi la mattina sentiamo un'opinione, c'è qualcuno che dice speriamo che facciate sentire altre opinioni. Noi variamo le opinioni nell'arco della settimana. Stamattina abbiamo sentito Massimo De Manzoni della Verità, che ha giustamente le sue idee su questo governo, così come il suo giornale le sue idee su questo governo, giusto? Giusto così, giusto sentire anche, no, giusto sentire tutte le voci, giusto sentire tutte le voci. Allora, andiamo al traffico, va. "24 mattino". Oh sì, certo, anche autostrade ci segnalate. Altra questione. Ovviamente l'altro capitolo, Massimo, è la giustizia, la riforma della prescrizione. Anche là, saranno problemi, soprattutto con l'altra componente della maggioranza, quella renziana, mi par di capire. Questo è il primo nodo che arriva, perché già oggi dovrebbe esserci un voto in aula. I renziani hanno già detto che voteranno assieme a Forza Italia contro la maggioranza, e quindi si proporrà il primo nodo. Non penso assolutamente però che questo determinerà sconquassi nel governo, questo va detto. Non si vede all'orizzonte in questo momento un vero nodo che sia in grado di determinare la crisi di governo. Il problema è la compattezza della compagine, è quello che dicevamo prima, sì. Perché poi alla fine un governo deve governare. Se per ragioni di equilibri politici non governa, questo è un problema, a prescindere da come la si pensi. Esatto. Da come la si pensi, il governo deve governare. E voglio aggiungere un altro elemento per gli ascoltatori, perché qualche ascoltatore dice state sempre là a denigrare il Movimento 5 Stelle. No, assolutamente. Diciamo che la sconfitta elettorale del Movimento 5 Stelle è netta. Detto ciò, ricordiamoci che qualche anno fa la Lega era al 3% e adesso è intorno, viene data intorno al 30% da tutti i sondaggi a livello nazionale. Quindi il Movimento 5 Stelle ha tutto il tempo, se crede, per recuperare. Di certo in questo momento è il grande sconfitto, sicuramente è minoranza nel paese, almeno dalle ultime dimostrazioni elettorali che abbiamo, e vedremo come andranno le cose. Intanto voglio salutare. Prego, Massimo. Detto questo, non è che Salvini abbia vinto, oggettivamente c'è un problema anche nel centrodestra. Oggi ci sono molte, anche sul mio giornale, ci sono molte riflessioni su quello che è successo e quello che sta succedendo nel centrodestra, con gli alleati che non sono particolarmente contenti di come è stata condotta la campagna elettorale, della candidata. Quindi non è che da una parte sia tutto rose e fiori, da quell'altra, cioè, ci sono più di uno sconfitto e più di un vincitore in queste elezioni. Vanno esaminate tutte le cose. Esatto. Ovviamente noi stiamo parlando del Movimento 5 Stelle perché ha un riflesso più immediato sulla nostra vita. La Lega è l'opposizione poi alla fine della fiera. Il Movimento 5 Stelle invece determinerà le prossime scelte che farà il governo, e le determinerà in base a criteri che sono condizionati anche dagli esiti elettorali. Hanno già dimostrato di non reggere molto bene la tensione dopo le sconfitte elettorali locali. Vedremo come andrà. Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, buongiorno. Buongiorno a voi agli ascoltatori. Grazie per aver accettato il nostro invito. Era ieri al tavolo con appunto una rappresentante del Movimento 5 Stelle che al momento è ministro del lavoro, ossia Nunzia Catalfo, per parlare della riforma delle pensioni, della revisione di tutta una serie di elementi a partire dalla legge Fornero e passando per la famosa quota 100. Voi vi siete presentati, proietti, con una proposta che prevede di andare in pensione a 62 anni senza penalizzazioni. Ci spiega com'è pensabile una cosa di questo genere senza scassare completamente i conti previdenziali? Assolutamente, non si scassa nessun conto, perché noi vogliamo riallineare il sistema d'accesso alla pensione in Italia a quello che avviene in Europa. In Europa in pensione si va tra i 62 e i 63 anni. Nel 2012 la legge Fornero, facendo una gigantesca operazione di cassa sulle spalle dei lavoratori e dei pensionati, prelevò 80 miliardi dalla previdenza per i libri conti pubblici. Quei soldi andavano spalmati su tutti i cittadini italiani. Allora noi oggi chiediamo di reintrodurre nel sistema previdenziale un po' di equità e di giustizia. E a questo proposito siamo convinti anche che dalla Commissione sui lavori gravosi potrà venire una fotografia del nostro sistema produttivo dalla quale si evince che le aspettative di vita non sono uguali per tutti i settori. A questo aggiungiamo che il costo della previdenza pura, spesa pensionistica in Italia, è sotto il 12%, e l'altra commissione che abbiamo chiesto con forza, che finalmente sarà insediata per separare l'assistenza della previdenza, dimostrerà questo dato. Noi quindi possiamo affrontare sia la sostenibilità economica di questi interventi e sia un discorso di equità e di giustizia per i pensionati e i lavoratori. Magari sbaglio io, Proietti, però mi risulta che in Germania siano i 65 anni, nel Regno Unito, che peraltro se ne andrà dall'Europa adesso, però insomma là siamo, tanto sempre di paesi occidentali si tratta, siano sempre 65 anni. In Spagna è lo stesso, 65 anni e qualche mese. Diciamo che fa eccezione la Francia, che sta tentando di riformare il sistema pensionistico. Cosa dice su questo? No, intanto in Germania è più bassa l'età di accesso alla pensione, tanto è vero che loro andranno a 67 anni nel 2030 e noi ci siamo andati, diciamo, l'anno scorso, che c'è una differenza. Poi, ripeto, si può ragionare su un intervento anche differenziato da lavoro a lavoro. Quello che è importante capire è che noi dobbiamo ripristinare una flessibilità di accesso alla pensione, che è quello che funziona. Anche la vicenda di quota 100 lo dimostra. Quota 100 aveva un potenziale di persone interessate di 350.000, quest'anno ce ne vanno meno di 180.000. Questo significa che se si dà flessibilità e libertà di scelta, molti lavoratori che pure potrebbero andare in pensione rimangono al lavoro perché stanno in buona salute, fanno un lavoro che gli piace e va via solo chi non ce la fa più. Quindi flessibilità, volontarietà e certezza delle norme. Noi ci auguriamo che questo lavoro, che ieri è stato impostato in maniera molto positiva, dia dei risultati nei prossimi mesi e si possa definire un pacchetto di flessibilità diffusa che risponda alle esigenze dei lavoratori, perché noi abbiamo anche quota 41 da inquadrare, abbiamo da finire la salvaguardia degli esodati, c'è da rendere stabile l'opzione donna e l'APE sociale, ci sono tutta una serie di misure che vanno nella direzione di ridare un po' di equità al sistema senza scassare i conti pubblici. Cioè, Proietti, dalle indicazioni che sono arrivate, insomma, che abbiamo letto, se non sbaglio, sono state date direttamente dal Ministro dell'Economia Gualtieri, un'ipotesi 62 anni costa una ventina di miliardi. Allora, premesso che ogni intervento legislativo ha un costo, quindi la palissiano dire che se si fa quota 62 costa, quota 100 lo stesso è costata. Si tratta di capire, come dicevo prima, se nel sistema si deve reintrodurre un'equità e una giustizia che è stata in questi anni fortemente compromessa. Se è questo l'obiettivo, si possono trovare delle soluzioni che tengono conto sia delle esigenze delle persone, delle esigenze dell'apparato produttivo, perché non dimentichiamo che aver elevato così in alto l'asticella per accesso alla pensione ha creato anche un blocco del turnover nel mondo del lavoro che solo adesso si comincia a riattivare. Se si condividono questi obiettivi, si possono trovare anche le gradualità per definire e introdurre questi interventi, ripeto, mettendo a riparo in ogni caso. Però Proietti, lei sa anche che insomma l'equazione, e quota 100 lo ha dimostrato in maniera plastica, l'equazione è meno gente anziana al lavoro, più gente giovane che entra al posto di quella anziana, è un'equazione che non funziona, quindi il ragionamento sul turnover ha senso e non ha senso, Proietti? Ma non funziona se si pensa che oggi la sostituzione possa essere vanno via 100 persone e vengono assunte 100 persone. È evidente che non è così, perché le dinamiche del mercato del lavoro, la tecnologia, l'innovazione hanno modificato il sistema produttivo. Però a me mi devono dimostrare che se vanno via 100 persone, almeno 50 entrano. Quindi non si può dire che se va via le persone non va a lavorare nessuno. Quindi non ci sarà un ricambio uno a uno, ma comunque un avvio di turnover c'è stato anche in questi mesi. Non abbastanza, però, mi sembra di poter dire, Proietti. Perché quello è legato alle dinamiche nuove del mondo del lavoro. È evidente che se prima per produrre un prodotto in un'azienda c'erano 50 persone, adesso con le nuove tecnologie ne bastano 15, è evidente che il ricambio non è uno a uno. Però un ricambio c'è, e questo è un beneficio anche, perché se entrano i giovani entrano con un valore aggiunto di innovazione, di sapere tecnologico, e quindi tutto il nostro sistema produttivo ne avrebbe dei benefici. Grazie Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, per essere stato con noi, e saluto anche Massimo De Manzoni, condirettore della Verità. Ciao Massimo, ci sentiamo alla prossima, buona giornata. Buona giornata a tutti, grazie. Cosa ci manca ancora? Cosa ci manca? Beh, insomma, il coronavirus, poi ne torneremo a parlare tra poco con tutti gli aggiornamenti in GR24, perché ci sono anche notizie che arrivano dalla Germania, dove c'è il primo caso accertato. Sentiamo dal ministro Speranza quali sono le misure adottate dall'Italia. Da quanto comunicato sinora risulta che l'Italia sia uno dei paesi che ha adottato un approccio più protettivo, raccomandando sin dall'inizio dell'epidemia di posticipare i viaggi non necessari, applicando immediatamente procedure di controllo sui voli provenienti da Wuhan e da tutti gli aeroporti cinesi, attivando il canale sanitario e gli screening in entrata agli aeroporti e prevedendo immediatamente misure di prevenzione diffuse tramite i più moderni strumenti telematici. Oh, so che questa storia, questa roba delle pensioni scatena, soprattutto il tema del turnover, ossia del cambio tra anziani e giovani. Tutta la teoria economica dice il contrario, e anche la pratica, da quel che si è visto. Insomma, alti tassi di partecipazione al lavoro dove c'è l'età, dove si va in pensione un po' più avanti. Ci fermiamo, GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa. A dopo.